Il punto di Stefano Folli. Oggi può essere una giornata importante se passa alla Camera, come dovrebbe, il disegno di legge per abolire le province. Ma si è già capito che il cammino delle riforme sarà molto impervio. Di sicuro non una semplice passerella per attrarre consenso elettorale. Se il progetto sulle province ha già scatenato tanto malcontento fra i parlamentari, cosa accadrà con altre riforme ben più complesse? Ad esempio con l'abolizione o trasformazione del Senato. Gli ostacoli sono normali quando si è ambiziosi, ma forse il progetto che riguarda la cosiddetta Camera Alta dovrà essere messo a punto da Renzi con maggiore attenzione. Così com'è sembra piuttosto confuso, una sorta di luogo di riposo per ex sindaci ed ex consiglieri regionali e come tale suscettibile di essere impallinato. Fermo restando che il nostro sistema dovrà essere monocamerale, con il governo che ottiene la fiducia solo a Montecitorio, il Senato non merita di essere maltrattato. Meglio trovargli nuove e più utili funzioni prima che sia troppo tardi.